Welcome, Federico. The system is ready to jack in. Ciao a tutti e benvenuti di nuovo a Medium, il podcast su Netrunner. Io sono sempre Federico, oggi mi sentite parlare un pochettino come se fossi sottovoce perché è 1:30 di notte e non voglio svegliare la famiglia che sta dormendo, ma avevo veramente voglia di farvi sapere che cosa ne penso del torneo che è appena trascorso a Modena Play. Una giornata molto intensa che ci ha dato a tutti quanti delle grandi soddisfazioni, in primo luogo di carattere umano. Ci siamo guardati in faccia, persone che avevo visto solamente su Facebook o in generale online, ho avuto modo di conoscerle e mi ha dato una bella soddisfazione, un bel senso di realtà. Quindi questo è già stato il primo successo. Il secondo successo è stato un torneone da 30 partecipanti che inevitabilmente mano a mano sono diventati, se non ricordo male, 28 perché alcuni hanno droppato, ma in generale un bel torneo organizzato molto bene. Grandi complimenti al Paddo che si è fatto il culo per noi. In effetti anche dal punto di vista della location alla fine sono contento che l'abbiamo fatto di sopra invece che in una delle stanze di sotto, perché il livello di concentrazione in questa maniera è stato maggiore, c'è stato meno caos. Io da parte mia avevo portato due mazzi un po' particolari, avevo già accennato che avrei fatto delle scelte un po' strambe, un po' interessanti nello scorso podcast ed oggi sono qui per parlarvi delle scelte che effettivamente ho fatto. La situazione in cui mi trovavo nel momento in cui mi sono trovato a fare i mazzi era che i mazzi di archetipo nuovo, quindi che includevano Fear and Loathing, non li avevo playtestati a sufficienza, direi non li avevo playtestati affatto, quindi mi trovavo in una posizione di o portare dei mazzi standard competitivi, diciamo piccole varianti di mazzi già ben playtestati, ben solidi, come che ne so, un Andromeda e un NBN con tutte le carte di Fear and Loathing, oppure fare delle scelte magari un po' particolari, portare dei mazzi stravaganti come faccio magari ogni tanto quando mi presento al Circolo Evolution, oppure potevo fare quello che effettivamente ho fatto, e l'obiettivo era quello di dimostrare un punto, quello di dire Netrunner non lo fanno le carte, non lo fa quanto hai speso in Netrunner, Netrunner lo fa il giocatore. E quindi ho deciso di portare due mazzi che includessero solamente le carte del core. Attenzione, non due mazzi che avessero solamente un solo core per essere costruiti. Ho trovato una via un po' di mezzo, diciamo che i mazzi che ho portato io si possono costruire con due core. Quindi poi dopo vedrete anche nella decklist, ci sono per esempio 3 Snigdor Beta, 3 Account Siphon, e questo è possibile solamente se si comprano due core. L'idea era quella di dimostrare appunto che ci si può divertire, si può far bene. Sono arrivato sesto nella classifica, quindi come dire prima di 2/3 di tutto il torneo e dopo 1/3 di tutto il torneo più o meno. Quindi ecco, sono arrivato abbastanza in alto nella classifica, questo anche grazie a un po' di fortuna. Ricordo l'ultima partita con Paolo, avrà ceduto come runner almeno a, che ne so, secondo me una 20 di carte, senza trovare agende che chiaramente magari pescavo io nelle mie pescate di click, e quindi insomma un po' di fortuna c'è stata. Magari c'è stata anche un po' di competenza da parte mia, ho visto da parte mia e anche da parte degli altri, però devo dire soprattutto degli altri, perché si tende a guardare gli errori degli altri molte disattenzioni, molti errori di carattere strategico, ho cercato in generale di approfittarmi di questi errori. E appunto, quindi, questo per sottolineare che è stata la parte del giocatore che ha fatto la differenza. Molto spesso mi trovavo in situazioni anche molto molto rischiose, dove avevo, che ne so, la mano piena di agende, piuttosto che non avevo modo di far soldi con il runner nei momenti critici, ma comunque sono riuscito a sfangarla. Questo perché chiaramente pur non avendo tutte le carte utili per poter riuscire a far molto bene, è molto nella tattica del gioco stesso e non necessariamente nelle carte che si vanno a utilizzare, l'efficacia di un runner o la potenza di una corporazione. Detto questo, direi che si è affermato definitivamente che l'uomo da battere, sia online, quindi via Octagon, sia offline, quindi nei tornei, sia Paolo Ranzani. Un piccolo applauso a lui, che tutti, non avendoci io giocato, ho solamente sentito com'è giocare con lui, e tutti mi dicono: è una persona molto paziente, molto metodica, non si lascia sfuggire nulla di quello che succede al tavolo, esegue in maniera impeccabile quello che possono essere le giuste manovre per portare a casa la vittoria, e quindi diciamo che non è quello che ci possiamo aspettare, che ne so, il giocatore pazzo e selvaggio che si prende dei rischi e porta a casa delle vittorie. Piuttosto è il metodico e inesorabile guerriero che costantemente tiene la concentrazione e porta a casa il risultato, non magari con l'estro, ma con un rigoroso atteggiamento tipico di chi si allena o comunque di chi ha un approccio professionale a quello che fa. Detto questo, che altro c'è da dire? Era solamente per dirvi che siete stati fantastici. Ringrazio tutti quanti, in particolare Clark, mi ha fatto un po' da supporto durante tutto il torneo. Vi do appuntamento alle prossime puntate di Medium per commentare magari i prossimi tornei che verranno fatti e le prossime uscite. Chiaramente Profit and Honor and Profit che sta per uscire, magari faremo una mega puntatona speciale per commentare tutte le carte. Vi invito come sempre a partecipare al podcast proponendovi di essere ospiti in questo piccolo spazio che mi dedico e che mi piacerebbe dedicare anche a voi ogni mese, ogni settimana, adesso poi io non sono molto regolare, però sì, diciamo ogni 2 settimane, ogni mese, e mi piacerebbe sentire anche la vostra voce. Fatevi avanti, non siate timorosi, ci facciamo una chiacchierata via Skype, si fanno 2 chiacchiere e ci divertiamo una serata insieme. Bene, con questo è veramente tutto, vi auguro una buona serata, una buona giornata a seconda di quando state ascoltando questo podcast, e noi ci risentiamo fra un paio di settimane, forse anche prima, con Medium. Ciao! Maintenance mode turned on. Jack out.